Benvenuti, benvenuti al 35esimo, se non ho contato male. Yeah, la matematica. Dicevo, benvenuti al 35esimo episodio del Focolare Elettrico, podcast di videogiochi e game design. Io sono Marco. Io sono Jacopo. E prima di parlare della puntata di oggi, puntata molto... preparata. No, stavo pensando in maniera molto ironica, molto improvvisata rispetto, no, di probabilmente quello che si andrà a parlare, ma andiamo con ordine. Innanzitutto c'è subito la nostra rubrica preferita, quella della Download Updates, in cui parliamo delle news della settimana. E Jacopo, è successo qualcosa questa settimana che è letteralmente una settimana rispetto all'episodio precedente in questo caso? Esatto, diciamo, di solito noi quello che facciamo è prepariamo un episodio, parliamo di cosa parleremo nell'episodio, cerchiamo un po' di informazioni, di articoli o semplicemente di giochi di cui parlare e poi ne parliamo per fare di sapere quello che... Non rivelare la magia, Jacopo. Esatto, no vabbè, penso sia la salsiccia più trasparente mai fatta questa, quindi sapere come è fatta era abbastanza chiaro. Però stavolta vi dicevo, ci siamo così, a cazzo di cane senza preparare nulla. Cosa che sinceramente a me non dispiace, perché alla fine se è solo, piuttosto che essere un semplice podcast dove riferiamo notizie, cose del genere, penso sia anche divertente un po' di più se le elaboriamo anche noi un po' a primo impatto, no? Le discutiamo tra di noi come le discuteremo quando non stiamo facendo un podcast. Esatto, però il bello è che questa sensazione di due persone che non sanno cosa stanno facendo è quello che provo io ogni volta che sento notizie sul caso Apple versus Fortnite. Visto come te l'ho rigirata? No, è stupendo, cioè ogni notizia che esce da quel tribunale è oro colato, perché è allo stesso tempo una conferma di... tutte quelle sensazioni che uno ha nel pensare, ah, questi sono business manager, sono, capito, persone in giacca e cravatta che prendono decisioni e così, è tutto vero. Cioè, sono tutti delle parodie di se stessi anni 80, American Psycho, cioè proprio... è bellissimo sentire quello che esce da quel tribunale, tutte le retoriche, no? le frasi per stuzzicare un po'. Ah, ma quindi vedo che qui ci sono... dice top 20, ma ci sono 25 giochi in questa classifica, quindi se mentono su questo, chissà su cos'altro mentono, insomma, cose così. E ultimamente è uscita questa notizia che, vabbè, a parte che hanno confermato il rumore, diciamo, semi-ufficiale, che la Microsoft voleva portare Game Pass su Switch, questo già si sapeva da un po'. Per estremo piacere della Microsoft. Sì, è una cosa abbastanza distopica, però era vera. Sono uscite anche altre notizie tipo riguardo questo giudice che tipo chiedeva, se non volete il Game Pass perché Netflix è su... vabbè, già ne abbiamo parlato altre volte. Comunque questa settimana è uscita un'altra notizia, ovvero che la Apple, che la Epic non pensa che Fortnite sia un gioco. No, era la Apple, cioè l'hai preso prima. No, era Epic che definisce Fortnite non un gioco. Ah no, scusami, sì, stavo facendo già il ragionamento, stavo già pensando all'altro partecipante dell'argomento, scusami. Esatto. Sì. E quindi adesso, ma quindi Minecraft, Roblox, loro non sono giochi a quanto pare, per la Apple però. Ah, quella è stata bellissima, perché secondo me adesso stiamo in causa di questo tipo, in cui veramente c'è due colossi che non hanno altro che soldi da buttare per scontrarsi uno contro l'altro, a un certo punto si deve raggiungere la metafisica, no? Una volta superato tutto ciò che c'era di concreto, si deve arrivare alla filosofia, al perché della vita stessa, forse, anche se andiamo avanti per ancora qualche mese probabilmente. Perché in poche parole la notizia più interessante di questa settimana è che Fortnite, ovviamente la Epic, Team Fortnite ha argomentato con Apple che lei giudica il suo gioco come un metaverso, e mi vengono già i brividi lungo la schiena a pronunciare questa parola. E la Apple ha detto no, è un metaverso, è un gioco, siamo sinceri. E allora Team Fortnite li fa, allora perché Roblox non è trattato come un gioco ma come un'app sull'App Store? E a quanto pare per Apple Roblox non è un gioco. Ma la cosa più divertente di tutti, secondo me, questa è la ciliegina su tutta questa torta di merda, è che Roblox ha cambiato tutti i termini presenti all'interno del gioco stesso, tutti i vari menu, le interfacce, per corrispondere ancora più pienamente alle varie definizioni date dalla Apple e non rischiare di cadere in mezzo a tutto questo casino. Esatto, tipo join the game, non è più join game, è solo join. La pagina tipo di... I giocatori giocanti sono diventati giocatori attivi adesso, una cosa... Sì, tipo, non so, c'era una pagina che è tipo scopri giochi di Anna, tipo scopri esperienze, una cosa del genere. Cioè, veramente obbrobrioso. Il bello è che è tutto... Cioè, un conto è dire, ok, proviamo a dare una definizione tipo... Per regolamentare, ovviamente a loro non gliene frega un cazzo, cioè di regolamentare, a livello di conseguenze non penso che sia necessario per loro dare una definizione di che cos'è un gioco, che cos'è un'esperienza, è perché, cioè, il motivo per cui lo stanno facendo è perché è rilevante per il caso, no? È rilevante per quello, cioè per l'argomento di entrambe le parti. E non perché bello è che... Tim Cook, il corrispondente della Epic, vogliono fare un podcast la domenica insieme. Dove esatto. Tim Cook e anche Tim... se devo ammettere, lo guarderei, perché secondo me uscirebbero stronzate ancora più grandi di quelle del processo. Tim Cook ha anche detto signor Apple, e Tim Sweeney ha anche detto signor Alberi. Questa è un deep cut, non so se la capite. Però... mi piace perché la conseguenza, cioè come effetto collaterale, potrebbe esserci effettivamente arrivare ad una definizione quasi giuridica o regolamentata di che cos'è un gioco, che cos'è una piattaforma. Quello, che cos'è. Quello sarebbe figo, quello non sarebbe male. Perché Roblox, secondo me, è come un po' come Minecraft, è un po' una piattaforma, nel senso da quel poco che so di Roblox e da quello che so di Minecraft... È possibile definirli più che giochi. Sono dei giochi, ma... Quasi dei videogiocazzi. Scusa, no, ci stava. No, io dico a livello regolatorio, cioè se fossero solo dei videogiocattoli non gliene fregherebbe un cazzo a nessuno. Però a livello di regolatorio, secondo me, nel momento in cui tu puoi usarlo come strumento per creare esperienze o giochi o anche... prodotti che vendi, no? Cioè nel senso... Ah, soprattutto ora... prodotti che di sicuro non si possono definire giochi completi loro, perché mi vengono in mente tutti i texture pack di Minecraft che vendono nel loro store, che costano soldi veri, che però, cioè... Non si possono più definire, no? Quasi le skin di Fortnite, di LOL, cose del genere, perché... È una cosa un po' di più a questo punto, come dicevi tu. Esatto, cioè non è che hai l'azienda che ha fatto il gioco che ti fa la skin. Hai altre persone che usano il gioco, senza che sia una licenza commerciale, ma semplicemente perché sono anche loro consumatori, per fare prodotti per altri consumatori che usano... Cioè è un po' un casino, e mi rendo conto che cioè, è difficile da regolamentare, da capire, perché comunque di solito le persone che regolamentano queste cose sono... settantenni che gli devi spiegare che cos'è un iPad, no, forse che cos'è un iPad l'hanno capito. devi spiegargli ancora magari cos'è un in-game store, eccetera. Quindi insomma, il prossimo passo è fargli ricordare la password dell'email. Esatto, no, a parte vabbè, l'anzianità, la velocità di evoluzione del campo, è che comunque per fare una legge, per fare una regolamentazione ci vuole tempo per capire, per ragionare, e quindi per forza di cose vanno più lenti del... cioè, diciamo, le leggi e i regolamenti, diciamo, e le prassi accettate sono più lente di Apple, Epic che sfondano cose Sì, ma assolutamente, e ma insanguano bambini, diciamo. Quindi di questo. già hanno fatto fatica a tenersi al passo, legge tutto quanto e con il mondo dei computer da quando è scoppiata tutta la cosa negli anni Ottanta. Figuriamoci poi con il mondo dei videogiochi, che è un mondo all'interno del mondo dei computer, quindi ancor più, tra virgolette, di nicchia per queste questioni legali. Quindi si può immaginare come nel corso del tempo, cioè, le aziende se ne siano abbastanza approfittate, solo adesso si stava iniziando un po' magari a parlare un po' di più con tutta quella faccenda di... Lootbox. Esattamente, mi hai tolto, era proprio la parola che non mi stava venendo, ma sì, loot box, quelle cose che la fanno somigliare molto di più al gioco d'azzardo, i videogiochi. Adesso magari si sta muovendo un po' più di prima, probabilmente, tutta la questione. Sa chi vincerà fra Apple e Epic? Potremmo Vogliamo aprire le scommesse? scommettere? Stavo per dirlo io. Cioè, abbiamo scommesso, altro che loot box, c'è cioè proprio Esatto. betting. No, Ma di sicuro. il problema è che queste scommesse di solito sono troppo bilanciate, servirebbe qualcosa di più sbilanciato. Comunque, vabbè, questa era una cosa che mi ha fatto molto ridere, questa battaglia con queste definizioni filosofiche in tribunale. Però a parte gli scherzi, la vittoria di chi in generale gioverebbe di più al mondo dei videogiochi? Perché ovviamente non in completo, perché di sicuro qualunque due dei vincitori, beh, Sì, molti la prenderanno finirà male in entrambi i casi. abbastanza. Sì, però qual è il minore dei mali in questo caso? Io direi Epic. Probabilmente sì. In questo caso specifico è Epic. E Perché almeno tu Epic. dici, magari si iniziano. C'è un altro po' un colpo di spinta, magari ai vari rivenditori, ai vari store online, di chiedere un po' meno come tassazione dei vari developer. Al di là di questo, cioè potrebbe, perché a volte le mosse sono preventive, no? Cioè tu magari dici, ok, diciamo prima che la causa sia finita, magari comunque Apple comincia a chiedere un po' di meno, magari a causa finita sarà costretta ad aprire a più store, magari sarà costretta ad aprire a più browser, no? Perché attualmente il sistema è molto chiuso, quindi diciamo che ci sarà un'apertura più, come dire, più diffusa, no? della concorrenza su telefoni. Perché è un po' quello che è successo anche con Windows, se ci pensi, no? Cioè tu hai un PC Windows e ormai la maggior parte delle persone che lo usano in maniera non molto superficiale. Lo usano, che ne so, si scaricano Chrome, hanno sopra un client di posta elettronica che magari non è quello standard, cioè nel senso è diventata abitudine utilizzare i programmi, diciamo, già inclusi su Windows, tipo Edge, tipo Mail e così, solo se sei scemo come me, o... Oddio, non voglio far sembrare che Edge e che col client Mail siano brutti, perché in realtà ormai Edge è buonissimo, però come dire, non è più quell'idea di ok, sono bloccato, cioè la Microsoft ha il monopolio dei browser dell'accesso a internet perché ti dà Internet Explorer e quella è l'unica cosa che c'è e non hai scelta e capito? Cioè hai un automatismo e hai una tua come posso dire, abitudine, una tua scelta preferita con i tuoi PC Windows, no? Le Certo. applicazioni che usi e scarichi da posti diversi, giochi a un client apposta, insomma, piano piano, che ne so, magari fra 10 anni avremo un client di Steam sul telefono dove possiamo comprare app per telefono, per farti un esempio, non lo so, ho fatto un esempio brutto, però dico, Sì, di magari settore sarà più accettato. effettivamente non ci fa molto caso, però i sistemi cellulari sono rimasti ancora molto più estremamente chiusi rispetto a anche a cioè, quelli fissi, a quelli PC veri e propri. Da un lato c'è un motivo, eh? Nel No, senso, assolutamente, cioè, Assolutamente. Io credo ad Apple in parte quando dice che comunque ci sono motivi di sicurezza, ci sono motivi di ottimizzazione, cioè non è solamente per mettere paura o per mettere, cioè c'è un 10% di verità, però ci si può lavorare, nel senso la sicurezza non è mai una cosa fatta e finita, ci bisogna lavorare sempre, è solamente un livello aggiuntivo di complessità che secondo me ne vale la pena per il consumatore. Sulla sicurezza è assolutamente vero, perché anche se ci pensi adesso molti finiscono per usare il cellulare come two-factor identification, no? come per identificarsi con varie app, anche con le banche, cose del genere. Quindi di sicuro la sicurezza è più importante in un cellulare che su un PC fisso di casa, in cui non dico è più sicuro in generale, però nel senso ci sono forse leggermente meno dati sensibili, almeno di solito non c'è la posizione, a volte non c'è la fotocamera e cose del genere. Vero. A parte questo, per dire che comunque, cioè, anche solo per farlo adesso vuol dire che la sicurezza ci hanno lavorato abbastanza, quindi forse sarebbe anche arrivato il momento di, ecco, dare un po' più di libertà, con attenzione ovviamente, facendo bene attenzione a non lasciare falle aperte, però anche lì è sempre un po' impossibile essere completamente sicuri. Un'altra cosa che secondo me andrebbe citata questa settimana è che, come dire, a me ha messo, non so, tristezza è forte come parola, però un po' l'ho preso in maniera un po' amara. Sempre in questo trend delle grandi industrie che gli piace, come diciamo prima, magari metterlo un po' in culo ai propri utenti. Una che, per parlare un po' troppo forte, so, non scandalizzatevi ascoltatori, ma un'azienda che sembrava volesse trattenersi un po', essere leggermente meno subdola, usiamo questa parola, sembrava la Nintendo, almeno io ci speravo un po', io sono stato un Nintendaro fin dall'infanzia, il mio primo gioco, come penso si sia capito da una vecchia puntata, è stato Pokémon Giallo, e poi lì sempre GameCube, Wii, eccetera eccetera. E adesso è uscita una notizia molto interessante della Nintendo, che per il remake di Zelda Skyward Sword, che pronuncia, ha deciso di fare un amiibo speciale per l'uscita del gioco, e va bene, ma che però a quanto pare il possedere questo amiibo ti dà la possibilità di sbloccare una feature dentro il gioco che per gli altri giocatori non è disponibile. Una questione di viaggi rapidi, nulla di game breaking, nulla di troppo eccessivo, ma che però un po' ti fa pensare, vuol dire che ormai anche la Nintendo si è rassegnata da, diciamo, baluardo delle vecchie tradizioni, no? Come tipicamente, non per fare, scusami, solo una cosa che ti lascio parlare, per fare razzista, il giapponese che è molto tradizionalista, anche lei, dicevo, si è lasciata un po' andare. Dicevi, Jacopo, prima che Marco. Prima che mi metta non volevo dire niente, no. No, in realtà, cioè, la Nintendo è sempre stata stronza. No, non posso dirlo. Allora, ecco, sai cosa? No, io sarei d'accordo nel dire la Nintendo non è mai stata buona, cioè non è mai stata quella che una società di sinistra, chiamiamola così, o comunque non interessata in guadagno, è stata stronza, ma era stronza in maniera un po' diversa, secondo me. E per questo forse leggermente migliore, cioè era quel diverso leggermente migliore, nel senso che forse tu dicevi un po' la stronzaggine anche lei, tipo Apple, molto di voler tenere il sistema chiuso, di non voler mai di essere sempre un po' antiquata anche per questioni di connettività tra giocatori e cose del genere, forse ti riferivi a quello? Beh, La Nintendo è piena, la sua storia è piena di mosse, cioè apparentemente idiote, tipo, o comunque anticonsumatore, tipo, ultimo esempio che hai fatto, la remastered di un gioco uscito per Wii pochi anni fa a $60 senza manco fare un pass sulla grafica, cioè è esattamente identico al gioco che è Sì, ma no, uscito ma 40 anni infatti fa. su quello sono d'accordissimo a dire che Cioè, ma ultimamente. questo è solo un esempio, cioè, perché anche in passato, no, il fatto di Super Mario sul cellulare con le microtransazioni che tipo bloccavano i livelli dopo un tot di livelli. Sì, ma io dico di recente, in effetti, a ripensarci un po' meglio, è forse gli ultimi 5-10 anni, però. Non lo so, guarda, non lo so, forse sto ancora guardando con le lenti rosate Ma dell'amore verso anche, cioè, Nintendo, ma. La retrocompatibilità, le virtual, come si chiama? Virtual console, vabbè. Sì. Lasciamo perdere. Cioè, Forse la sono io Nintendo che. ha una sua dose di stronzaggine, soprattutto per quanto riguarda i vecchi giochi e gli emulatori, che è tutta sua, non gliela toglie nessuno. Però vabbè, ci sta. Quello non È lo so, come io con cioè. Xbox, cioè, li perdono tutto. quello forse anch'io ero leggermente più gentile con la Nintendo, però non so, mi rimane ancora quella sensazione che sì, fosse stronza, ma in maniera un po' diversa ancora, e adesso invece si sta uniformando anche lei, il che vorrebbe dire che probabilmente questo che mi fa preoccupare, quindi vuol dire che è stronza in maniera diversa. Più in aggiunta all'essere stronza in uguale a tutte le altre, quindi è doppiamente stronza adesso. Chi lo sa, questo Chi può lo dirlo? vedremo nel prossimo futuro. Vedremo la prossima settimana con la prossima notizia del caso Apple contro Epic, dove si scopre che la Nintendo ha dei campi di concentramento con dentro giocatori di Pokémon. Pensavo i Comunque, bambini che facevano i cellulari o qualcosa del genere. E no, come dicevo prima anche a te, perché voglio condividerla anche con tutti i nostri ascoltatori. Ciao Salla. E spero che ci facciano una serie Netflix sul caso Apple vs. Epic quando tutto sarà finito. Anche se probabilmente dovremo aspettare qualche anno per, non so, il rilascio completo delle trascrizioni, chi lo sa. Aaron Sorkin, per favore, voglio Aaron Sorkin che scrive e dirige la serie su Apple vs. Epic. Comunque, c'è un episodio in cui non abbiamo salutato Salla? Mi sa di no. Mi sa che in ogni episodio abbiamo salutato Salla a un Qui certo è punto. Vero? il Salla nostro patrono? padre, no? È il nostro creatore, il nostro. Non vorrei dargli altri titoli per evitare che si monti troppo la testa, però. Ah, guarda. Non c'è rino, scherzo. Bene. Quindi si conclude qui la nostra rubrica delle news. Un po' più analizzate, come spero che continueremo un po' a fare nei prossimi episodi. E di nuovo, ancora prima di andare avanti, Jacopo, tu a che hai giocato questa settimana? Paolo. La mia risposta in realtà è il motivo di questo episodio, quindi perché non. Esatto, quindi parlo prima io, come mi piace fare, Esatto, vai. e poi lascio un po' a te il microfono che introduci per bene l'argomento di questa puntata. Ok. Allora, io a parte continuare sempre un altro po' con Isaac, finalmente riuscito a fare la boss rush con Jacob ed Esau, chiunque sa di che cosa parlo può capire la mia contentezza. Per il resto, così, un po' molto a una voglia in gravidanza quasi, mi era venuta voglia di tirare fuori un gioco che avevo giocato un po'. Tanto, tanto tempo fa, un paio, forse un anno e mezzo fa, ma che poi non avevo toccato perché sul mio vecchio PC non girava bene, mentre su quello che ho adesso, nonostante l'assenza di scheda grafica, riesce a girare senza troppi problemi. E ho riscoperto la mia primordiale paura, la mia primordiale talassofobia, la paura degli abissi, giocando un po' a Subnautica questa settimana. Ah. Sì, ispirato, mi era capitato qualche video su YouTube di gameplay e guardarli mi ha fatto venire voglia, giusto per sempre a sempre a dire tutti quelli. No, ma se poi ci giocano su Twitch non vendono, i giocatori non hanno più voglia di giocare. No, siamo sinceri, se il gioco è buono, i giocatori hanno voglia di giocare. Succede quando il gioco è una merda. E quindi, che dire, io ho fatto questo qui per la settimana e ho riscoperto che Subnautica è veramente un gioco bello. Sono stati veramente bravi gli sviluppatori, ma veramente, veramente bravi. Ho guardato anche qualche intervista qualche tempo fa e veramente tanto di cappello, ci hanno fatto veramente un lavorone della Madonna. Infatti, prima o poi vorrei Ma riuscire a perché? giocare anche il seguito. Perché prima quando parlavo di talassofobia ero serio, nel senso che sono riusciti a creare un'atmosfera che richiama un po' quel terrore primordiale degli esseri umani per le profondità degli abissi. Io spero che abbiano pagato a peso d'oro il loro sound designer perché ha fatto un lavoro assurdo, assolutamente. Ci sono dei il sound design del gioco è pazzesco. Mi sono cagato addosso più di una volta giocando e che dire, e anche tutto il sistema di avanzamento, di crafting, di esplorazione assolutamente ben riuscito, quindi per un team che se non sbaglio è abbastanza piccolino, no? Penso forse mi confermerai anche tu, fammi ricontrollare. Ed era tipo, non era la prima volta, però aspetta, fammi controllare come si chiama il team. Dovrebbe essere, mi dà il nome del designer che è Charlie Cleveland, ok, però sapere, l'Unknown Worlds Entertainment, sto prendendo la mia pronuncia inglese quest'oggi. Che altro ha fatto oltre a Subnautica? Non ho idea. Subnautica non tantissimo, in realtà è stato il titolo di punta di un paio di anni fa, a parte un paio di titoli prima che però io non ho molto sentito. Natural Selection nel 2002, devo ammettere che non saprei. Quindi buon lavoro, complimenti, un piccolo applauso, un piccolo riconoscimento, anche se, voglio dire, non so, non penso ci ascolteranno i vari autori, però hanno fatto Zen of Sudoku nel 2006. Ok. Ok, va bene. Direi che, vedi, questa è un'altra, come si dice, è un'altra dimostrazione che col tempo si migliora. Ok, quindi diciamo, sono stati bravi a spaventarti, a farti venire gli incubi del Assolutamente. profondo, e sono stati bravi con il game design. Hanno creato un mondo, letteralmente, questa volta non c'è descrizione migliore di questa, hanno veramente creato un mondo. Ok, mi stai incuriosendo perché l'avevo un po' ignorato visto che mi sembrava molto il solito survival con il twist che avevi effettivamente un obiettivo da raggiungere. Però diciamo lo avevo messo nella categoria di giochi che se non ti prende il gameplay sei fottuto perché è sempre uguale per 12 ore o 30. Quindi diciamo l'ho un po' saltato, un po' come Hades, che l'avevo messo nella categoria roguelike, quindi l'avevo saltato per il momento, dovrò recuperarlo. Come anche Isaac, come anche. Ho saltato anche. Come si chiama? Souls-like tipo alla Ori, in 2D, come si chiama? Hollow Hollow Knight. Knight l'ho saltato, cioè tutti i giochi che dovrò. Returnal, lo sto ignorando. Sono quei giochi che so che prima o poi devo recuperare quando avrò Vedi, mi piace la botta di perché latte. questa maniera molto romantica ci completiamo a vicenda, perché finisce, io gioco i giochi che tu metti da parte, tu giochi quelli che io non ho le console per giocare. No, vabbè. No, tu giochi giochi che sinceramente non sono per me, io gioco giochi che non sono per te, e poi dopo ci uniamo in questo podcast. Questo Megazord di Che è uscita così nerdaggine. sessuale questa Esatto. metafora, ma andiamo avanti. No, però ecco, diciamo, io non lo metto in definitiva nella colonna del no, come non l'ho messo Dark Souls No, alla no, fine certo. sono stato convinto a giocarlo ed è una delle mie saghe preferite ora, almeno Sekiro era uno dei miei giochi preferiti, Dark Souls mi è piaciuto molto, diciamo, Ok. anche Bloodborne, quindi ecco, non escludo che anche questi che abbiamo detto saranno eccitanti. Comunque, cambiamo argomento, ma non cambiamo argomento, perché comunque parliamo del gioco che sto giocando ora, non l'ho ancora finito. Niente Parliamo di spoiler. The Last of Us parte 2. Ora, noi abbiamo mezzo spoilerato The Last of Us parte 1, Beh, e anche di ma 6 anni fa la gente poi che, inizia a vabbè, rompere un po' anche con gli ok, però diciamo, io so di molte persone che, ad esempio il nostro amico Luca Odis che questi giorni ha iniziato e finito Outer Wilds perché lui mi vuole bene, al contrario di qualcun altro, Non 6 anni fa, l'ha giocato. appena mi mandi una scheda grafica lo faccio anch'io. Ma perché io devo tutto io devo mandare? Che cazzo? Vabbè, comunque. Questo, cioè, capita che uno magari non gioca dei giochi che sono considerati dei capolavori, poi dopo qualche anno li recupera. Magari, ecco, io questa puntata eviterei di fare spoiler perché in realtà la puntata non è su The Last of Us parte 2. Anche perché non l'ho ancora finito. Cioè, in realtà sono arrivato a metà e tutti i spoiler che mi aveva fatto l'internet perché l'internet mi ha spoilerato quasi tutto di questo gioco. Ormai li ho superati, quindi ora sono nella fase finalmente di ignoto dell'ultima parte del gioco. E in realtà questa puntata vogliamo parlare di recitazione. E quindi in realtà parleremo anche di altri giochi che non ci siamo preparati, però dal titolo forse alcuni di voi avranno già captato che si parlerà anche di L.A. Noire, da cui è stato ricavato il famoso meme X Doubt che poi spiegheremo perché e come. Però sì, cioè, parliamo di alcuni giochi dove c'è una grossa enfasi sulla recitazione. Parleremo anche un po' dell'evoluzione della recitazione nei videogiochi e un po' è un discorso in realtà un po' anche collegato alla tecnologia, per forza di cose. E magari faremo anche qualche cenno giustamente alla recitazione del doppiaggio, perché è la parte forse più importante ancora nei videogiochi. E quindi niente, parleremo un po' di questo usando The Last of Us Parte 2 come una scusa. Prima di cominciare, appunto, voglio dire una cosa che è di The Last of Us Parte 2 in generale come gioco, non della recitazione. Questo gioco mi sta facendo venire l'ansia, ma non perché è un horror. Ma perché noto tutti i 200 piccoli dettagli che hanno messo dentro e che non servono assolutamente a un cazzo, e mi viene l'ansia a pensare alle 200 ore di meeting che hanno dovuto fare per quella feature, per quella. La parte Cioè. della corda l'hai già fatta? No, ma c'è una. Allora, no, tu ti avvicini a un banco. Questo non è uno spoiler, questo c'è anche nel primo gioco. Tu ti avvicini a un banco di upgrade, tu c'è cioè questo banco di lavoro, tu ne trovi diversi durante il gioco di banchi di lavoro. Quando ti avvicini puoi per potenziare le tue armi, essenzialmente, serve a questo. Se hai dei pezzi per il crafting puoi potenziarle. Adesso niente, In spoiler un del gioco, crafting esatto, spoiler crafting, in un gioco normale, quello che succede è che tu ti avvicini, si apre un menu, scegli l'arma, scegli il potenziamento, lo potenzi, fine. In questo gioco, siccome sono malati mentali, hanno qualche problema di disturbo ossessivo compulsivo, cioè, tu ti avvicini, il personaggio smonta l'arma davanti ai tuoi occhi con un'animazione molto dettagliata, tu scegli come potenziarla, l'arma viene rimontata e quel pezzo è potenziato, e la rimonta con tutta l'animazione, la pulisce, cioè. È una quantità di dettagli che in un gioco del genere non servono. Non servono. Crunch? Crunch. No, niente. Vabbè. No. Marco, stai mangiando una merendina col Ah, pane. sì, mi è sfuggito. Scusate. E quindi niente, volevo solo dire che io capisco immersività e tutto, però cioè, è veramente fuori di testa la quantità di animazioni, la quantità di dettagli nella voce, la quantità di sistemi di cose che hanno messo, che hanno integrato, tu fai spacchi una finestra, il vetro finisce in faccia alle persone. Cioè, no, veramente, basta, non... mi viene l'ansia a parlarne. Come qualche, neanche troppo tempo fa, credo fino a qualche mese fa, cos'è, 6 mesi fa, cosa del genere, su YouTube andavano tantissimo quei video di tipo gli esperti di un settore che No, anche adesso, io li giudicavano, vanno guardo. anche adesso, sì, ok, non so, fuori. Mi era sembrata un po' passata l'onda, ma forse ancora no. Comunque, esperti di vari settori che guardano esempi e poi giudicano e cose del genere, no? E siano essi effetti grafici o qualsiasi altra professione, immagino che ci sia di tutto. E questo è il nostro equivalente di noi che più o meno ne sappiamo di programmazione, si spera, secondo me, dopo una laurea in ingegneria informatica e cose del genere, e chi più chi meno anche di sviluppo di videogiochi, e vediamo The Last of Us e ci inorridiamo a pensare a quello che hanno dovuto fare quei poveri programmatori per implementare tutte queste cose, dettagli. Come dicevo, non so se c'è già stata la parte della corda dove c'eri tu. Perché io ho visto un video online di una corda simulata all'interno del gioco, che era poi tipo credo per aprire un passaggio, però era simulata completamente all'interno del gioco. E ho detto, ma chi è che ha fatto questo lavoro per una No, vabbè. corda? Ma è No, no, no. follia. Dopo No, no, no. si è impiccato con un'altra, perché immagino che debuggare quel lavoro lì e scrivere tutta quella roba. Mamma mia, Comunque, io vabbè, ok. Io, cioè, appunto, non ne voglio parlare. Mi triggera come argomento, non... Vabbè, quindi... quindi questo era giusto un accenno. Mettiamolo Grazie, in sì. un angolino sotto il tappeto per un'altra volta. Ok, però vabbè, il motivo per cui portiamo The Last of Us come causa scatenante è che è un gioco abbastanza recente, che è molto narrative driven, si dice, no? Quindi molto guidato da narrativa, ovvero che si concentra su una narrativa che viene principalmente giocato per come fosse una specie di blockbuster, no? Dell'industria videoludica, questo enorme... gioco costosissimo, mega dettagliato, mega realistico. No, non realistico no, però comunque molto cinematico, molto bello da vedere, appunto dettagliato, come abbiamo detto, eccetera. E una delle caratteristiche moderne di un blockbuster, di questo titolone, no? Questo tripla A, o quadrupla A, come si può definire, The Last of Us Parte 2, è la recitazione. Perché diciamo, negli ultimi 15 anni circa, la tecnologia si è un po' evoluta per, come dire, no, per garantire, per sostenere, per dare la possibilità di registrare i movimenti, registrare le espressioni visive anche adesso, di alcuni attori, di solito un teatro di posa dentro uno studio fatto apposta, e riprodurre in ambienti 3D. Questo, diciamo, inizialmente è nato per i film, quindi è nato per Il Signore degli Anelli, anche se Il Signore degli Anelli in realtà usava un po' di trucchetti, cioè nel senso non era proprio ancora una tecnologia utilizzabile in maniera utile e economica. Poi piano piano con vari, cioè, sviluppi. Così, diciamo che intorno al 2006-2007, diciamo gli anni di produzione di Avatar, mettiamo così, cioè, durante gli anni in cui Avatar era in produzione, questa tecnologia si è evoluta sempre di più finché non siamo arrivati ad ora che è una tecnologia diffusissima, no? Quindi tantissime persone possono usare anche strumenti molto economici relativamente per registrare dei movimenti, per registrare delle espressioni facciali e riprodurli su PC. Stiamo parlando di VTubers in questo momento, anche in Esatto, questo stiamo parlando podcast di sono VTuber. arrivate. Sono arrivate le VTubers anche in questo podcast. Esatto. E VTuber cosa sono, Marco? Spiega questo No, bellissimo... cioè, No, è colpa tua, cioè... beh, posso parlare un po' del trend più comune in voga in questo momento, ovvero almeno in questo ambito, nell'ambito delle VTuber, in cui praticamente praticamente viene creato in, andiamo con ordine, in siti come Twitch o altri siti di broadcasting, streaming e broadcasting, molti creator decidono di usare un avatar virtuale che possono muovere e far funzionare in tempo reale tramite appunto questa tecnologia di motion capture, per creare appunto questa figura, questo personaggio di cui vestono i panni nelle loro live. E tipicamente questi VTuber sono ragazze anime carine, non so come altro definire, in inglese è cute e in anime girl, quindi kawaii assolutamente. E che dire, almeno questo è quello che si fa su Twitch e cose del genere, quando uno non ha spazio per una piscina in soggiorno. Ma nel mondo dei videogiochi, torniamo un po' più sul nostro nel nostro ambito, almeno per momentaneamente, come diceva Jacopo, questa tecnologia che è partita dal cinema è arrivata molto presto nel mondo, cioè, come dire, il passo immediatamente successivo è passato dal cinema al mondo dei videogiochi, dove appunto molte delle case produttrici più grandi, perché comunque ci vuole un certo investimento per una tecnologia di questo genere e soprattutto per creare personaggi realistici come quelli di The Last of Us, è appunto stata utilizzata per creare la parte narrativa dei videogiochi e ha fatto nascere praticamente il mondo di doppiatori e attori di videogiochi, che è diventato molto, come dire, abbastanza grande negli ultimi anni, perché ha creato un intero nuovo ambito lavorativo dove prima gli più attori o meno, sì, praticamente più o meno. Sì, cioè, cioè, nel senso, comunque non è che prima gli attori non esistevano, cioè comunque no, però, sono sempre attori, non è che cambia molto, cioè. Però è anche vero che adesso almeno magari qua parlo io un po', perché forse credo di avere un po' più di esperienza rispetto a te, c'è proprio la branca di, come dire, ci sono gli attori che ottengono abbastanza fama e successo, non tanto per film o cose del genere, ma per i loro ruoli in videogiochi e altre produzioni di questo tipo. Parlando appunto di The Last of Us, lì ha portato abbastanza alla fama i due protagonisti del primo gioco, che sono Ashley Johnson e Troy Baker, che sono diventati, che erano abbastanza, come, anche lì, famosi, usando questo termine in maniera un po' laterale, perché nel mondo del voice acting, che anche lì uno, come dire, puoi essere famoso come doppiatore, però magari la gente non ti riconosce per strada, no? Perché di nuovo riconosce la tua voce, cose del genere. Mentre qui li ha abbastanza portati a successo, perlomeno in America, cose del genere. D'altronde, ricordiamo che Troy Baker è stato praticamente, cioè, è l'unico che ha fatto il passo opposto rispetto a tutti gli altri suoi colleghi, gli altri suoi collaboratori nel videogioco di Death Stranding, nel senso che, giusto per anticipare un attimo il momento Kojima, nel senso che in Death Stranding, mentre tutti gli altri personaggi erano praticamente attori di cinema e TV che venivano portati nel mondo dei videogiochi, a loro è stato unito uno che partiva dal mondo dei videogiochi e da lì ha mostrato, diciamo, la sua vera faccia nell'opera di Kojima, che è appunto Troy Baker. Quindi era giusto per dirne una. Poi vabbè che io sono anche, come dicevo, un fanboy di alcuni di loro, perché seguo Critical Role, eccetera, eccetera, ma questo è un altro discorso. Quindi, cosa stavamo dicendo? Parlavamo di B2. Sei perso un attimo a parlare, sì, da fare il fanboy Troy Baker. Comunque, lo so. Io sono un fanboy di Troy Baker, come avevo accennato in altre puntate, purtroppo. Comunque, non volevo dire che non è stato creato lavoro, che persone non sono diventate famose con recitazioni di videogiochi. Quello che dico è che la recitazione nei videogiochi adesso è molto simile alla recitazione nei film, grazie anche a questa tecnologia. Quindi un attore che recita in un videogioco non è diverso da un attore che recita al cinema. Cioè, ci sono regole un po' diverse, come il teatro è diverso dal cinema, è diverso un po' dalla televisione. Certamente. Però è comunque recitazione, ci sono personaggi, assolutamente. Battute, situazioni. È un po' strano perché di solito, appunto, in un videogioco, nel 99% dei casi, non stai recitando, come dicevamo, non stai recitando in un ambiente reale, ma stai recitando in un ambiente virtuale. Quindi tu sei in questo teatro vuoto, in questa specie di magazzino vuoto di solito. Ci sono altre regole. La regola numero uno è devi riuscire a interagire con i tubi, altrimenti non c'è. Esatto, non devi avere problemi ai tubi, delle palline da golf e dei vestiti attillati. No, vabbè, se avete visto Mythic Quest, e se non l'avete visto, fatelo. C'è una scena dove loro registrano movimenti in questa, appunto, sessione di motion capture, si chiama, quindi cattura del movimento, o performance capture, che è cattura della recitazione, della performance. Quindi tu hai questa tutina con questi puntini che delle telecamere intorno a te riescono a catturare, no? Quindi riescono a tracciare i movimenti che fa il tuo corpo, o al minimo a tracciare i movimenti che fa il tuo scheletro, perché in realtà poi dopo ne parliamo, comunque c'è un altro livello di complessità. In alcuni casi, se hai molti soldi, puoi anche metterti una telecamerina in faccia, proprio tipo montata con una specie di, come fosse una specie di microfono, da impiantare nel cranio, esatto, per registrare le tue espressioni. E questo poi, diciamo, tutti questi dati vengono utilizzati da alcuni artisti, da alcuni animatori, per creare il risultato finale. Quindi tu hai poi un altro personaggio virtuale a cui applichi questi movimenti, a cui cerchi di mappare queste espressioni, e poi successivamente c'è la registrazione dell'audio. Quindi in realtà l'audio di solito è registrato in sede separata, no? Lì è solamente per avere un riferimento di battute, di cosa fare. E questa tecnologia, diciamo, che è cominciata ad essere utilizzata più in maniera più, come posso dire, più estensiva, no? Più ubiqua, non so come dirlo, comunque in maniera più diffusa in quegli anni, no? 2006-2007, che abbiamo detto prima, quando uscì il primo Uncharted, in realtà è degli stessi che hanno fatto The Last of Us, quando alcuni giochi più costosi tipo Call of Duty così cominciarono a usarli, cominciarono ad esserci anche degli attori abbastanza famosi già nel cinema che partecipavano in queste produzioni, tipo Gary Oldman, in molti giochi c'è stato lui. Sì, assolutamente, cioè il fare una parte in un videogioco era diventato... Ed è diventata la moda del momento, no? Cioè, tutti volevano nel curriculum, siamo sinceri, un po' era così, volevano tutti un po' nel curriculum. Non credo sia più un fatto di soldi all'inizio. Ah, cioè, anche quello, sì. Poi però, forse a un certo punto, soldi e moda, quindi nulla di troppo strano. Continuo pure, non voglio interrompere. No, vabbè, è anche vero che a un certo punto, appunto, degli attori hanno cominciato più a interessarsi, perché comunque esistono attori... Che se ne dica, che sono anche videogiocatori, quindi cioè, purtroppo alcuni giocatori, sì, alcuni attori hanno questa fortuna che sono famosi e quindi possono semplicemente dire: ehi, posso lavorare a questo gioco? Sì, ok. Bastardo di un Elijah Wood, scusate. E, quindi ecco, tipo, comincio a sentire sempre di più voci celebri, facce che conosci, cose così, e diciamo, per un po' era questo, cioè tu avevi semplicemente un cast di attori che di solito erano un mix di mestieranti, di persone molto brave che lo fanno di mestiere il doppiaggio, no? Quindi hai persone che hanno una voce molto molto flessibile, molto che hanno doppiato tantissimi personaggi nei cartoni, nei videogiochi, nei film, così, tipo Nolan North, ora... Lo conosciamo principalmente perché era Nathan Drake e magari lo conoscete anche per altri ruoli, ha fatto anche altri ruoli in altri giochi. Ed è ormai una faccia anche riconoscibile nel mondo dei nerd, però adoppiato veramente una caterva, una vagonata di personaggi e con voci molto diverse. Se qualcuno ha visto Lower Decks, che è la nuova serie animata su Star Trek, c'è un personaggio che lo doppia lui, che è un personaggio che è metà bambino e metà anziano, nella stessa persona. E fa con la. Cioè, mi fa morire, è troppo divertente. Ed è sempre lui, è sempre una Norta che fa entrambe le voci. E si è divertito come un matto in quella serie. E quindi, insomma, ci sono queste persone molto brave che lo fanno di mestiere. Jennifer Hale, no? Forse abbiamo già citato diverse volte questi nomi Ma di abbastanza sicuro famosi. saranno saltati fuori in varie puntate un po' per Sì, Jennifer Hale è quella di Femme Shep in Mass Effect. O come lo chiamerei io, Shepard, scusate per chi incluso me usava Mayshep, ma il vero Shepard è Jennifer Hale, secondo me. Comunque ci sono tantissimi altri, vabbè, uno dei miei preferiti, Keith David, che ha fatto la voce di, sempre la voce di, non mi ricordo come si chiama, un personaggio di Mass Effect, ma anche di Arbiter in Halo 2, in Halo 3, eccetera, molto bravo. Jennifer Taylor, voce di Cortana, cioè ci sono tantissime persone che sono diventate famose per questo lavoro e che sono brave a doppiare. Anche in Italia abbiamo tantissimi doppiatori, il Fu, Tonino Accolla, come anche Monica Ward, tantissimi, Luca Ward, tantissimi, tantissimi nomi, tutti che finiscono con Ward. Però, diciamo, questo lavoro che è importantissimo, che è comunque difficile e appunto è proprio la carriera di alcune persone, è stato un po' affiancato per un po' di tempo a questi celebrity voice actor che di solito facevano schifo. Nel senso, erano persone che lo facevano solamente per soldi, perché era un lavoro di tipo di 2 ore, fatto un po' controvoglia, perché sono persone di solito che hanno lavorato a roba tipo Star Wars, tipo. Ho visto un documentario su Dishonored dove dicevano: ah sì, abbiamo fatto fare una voce a Carrie Fisher, ma il bello è che questa voce non la puoi sentire di solito. Cioè, se tu non fai una cosa molto idiota in quel gioco, che è tipo uccidere un tizio che fa annunci agli altoparlanti, tu non la puoi sentire quella voce, perché la voce alternativa. Però è divertente perché la voce alternativa e si sente che non sa cosa sta succedendo, non sa cosa fare, capito? Quindi no, molto. E diciamo, alcuni modi di Ma utilizzarle, perché sta cosa? eh? È Mi bellissimo. fa così strano. No, è bellissima proprio. Sì. Però, diciamo, era la maniera secondo me più brutta di usarlo, no? Cioè, solamente perché hai il nome, solamente perché puoi, non Sì, perché assolutamente. volevi, no? E quindi quando invece le celebrità le prendi e poi le usi bene, tipo Tim Curry nel famoso video di, non so se era Red Alert o Command & Conquer, cioè praticamente in alcuni giochi, Ah, sì. in alcuni rari giochi, perché ormai non si fanno più, ci sono proprio video di attori veri, cioè video reali, di attori reali. Full Adesso motion ultimamente me capture. ne so. Eh? Full motion capture, se non sbaglio. Full motion video forse, Video FMV. capture, sì. Video capture, non. E che sono diventati famosi durante il periodo dei CD perché, oh mio Dio, 700 megabyte, tantissimo spazio, come lo usiamo. Ed è divertente perché, vabbè, adesso ce ne sono alcuni più rari, che ne so, tipo Hair Story o non mi ricordo, vabbè, ce ne sono alcuni che sono stati fatti recentemente, però prima era una cosa per avere filmati fatti bene quando ancora la tecnologia non lo consentiva. E c'è questo gioco dove c'è Tim Curry che fa questo generale ed è un generale mezzo fascista, non ho capito, e si diverte un mondo. Cioè, io non ho mai visto un attore divertirsi così tanto con un ruolo. Pace. Era lui, mi sa, Era eh lui, sì. assolutamente. C'è anche, mi sa, un filmato che hanno lasciato dentro dove si sta proprio collassando lui, cioè dove quasi si mette a ridere. Penso Bellissimo. fosse proprio questa, beh, quello che è diventato un po' famoso, il meme di lui che stava per mettersi a ridere sulla parola space, appunto, che era una frase del tipo andrò nell'unico posto in cui i comunisti non potranno raggiungerci. Space, si vedeva che stava quasi per mettersi a Che ridere. bello. Ed è, cioè, quando ancora tutto questo era all'inizio, quando non si sapeva ancora cosa si stava facendo, quella era di sicuro uno dei modi migliori, cioè almeno usare, fare in modo che almeno agli attori piacesse il loro progetto, anche se non stavano facendo Shakespeare a teatro. No, no, esatto, una cosa scanzonata. Però sì, cioè nel senso, quel momento lì era giusto il non prendersi troppo sul serio. Quella è una delle scene d'esempio. Ci sono stati anche prima, pensa tipo a... È una cosa un po' diversa, ma non so perché mi è venuto in mente. Pensa ai vari attori che hanno dovuto fare la reference per il primissimo Mortal Kombat o cose del genere. Sì, no, esatto. Sì, erano tutte cose molto camp, molto campy, molto, molto ridicole all'inizio. E, no, è vero, grande. Anche per il primo Prince of Persia, tutte quelle reference di quelle animazioni. Sì. Diciamo che è un mestiere, dico quello del doppiatore, che è importante ancora adesso, al contrario di questi filmati FMV che non ci sono più molto, a parte per qualche motivo nei giochi Remedy che loro continuano a volerle e a farle in maniera un po' ridicola, sono molto carine in realtà. Però il mestiere del doppiatore adesso è diventato ancora secondo me più importante perché... Cioè, allora, mentre magari prima c'era anche meno dialogo, no? C'era anche meno storia, c'era anche meno emozione. Ora i giochi si sono evoluti un po', sono diventati un po' più maturi. Non tutti, però di solito i giochi story-driven, faccio un esempio tipo Spider-Man della Marvel, nonostante sia comunque un gioco di supereroi, Spider-Man, comunque i doppiatori sono bravissimi a venderti l'emozione, a venderti quello che stanno facendo, e soprattutto la tecnologia consente di fare cose tipo se tu ti muovi, tipo cominci a muoverti tra palazzi, no, con la ragnatela e Spider-Man è al telefono con qualcuno con l'auricolare, lui sta ansimando mentre parla, se ti fermi lui smette di ansimare, quindi hanno dovuto fare due volte il dialogo. Una volta con lui che sta ansimando, una volta senza. Ed è bello quando tu cominci a fare roleplay, a dire no, aspetta, questa persona non deve sapere che io mi sto affaticando perché pensa che io sia a casa, tipo, no? Mm-hmm. Oppure quest'altra persona deve pensare che mi stia affaticando. Quindi, cioè, ho cominciato a muovermi in base alla conversazione, in base a chi stavo chiamando. Quindi, no, è stato una botta di genio. Sempre della però serie, ecco, questi dettagli che non ci si aspetta un po' quasi, queste case, esatto, di tripla, vero? Esatto, no, e quindi diciamo il doppiaggio si è comunque evoluto, è rimasto importantissimo, però ora è affiancato a quest'altra nuova tecnologia che consente di usare bene comunque anche le celebrità e i volti noti, così come il corpo, no, degli attori, cioè quindi assolutamente. Se è un attore famoso ed è un attore di teatro, di cinema, di televisione, puoi vendere anche la faccia, puoi comunque dargli la possibilità di fare qualcosa di familiare, di interessante, perché magari non tutti hanno fatto performance capture. Se non ti chiami Andy Serkis, diciamo, è una cosa nuova di solito. E quindi insomma può capitare un Gary Oldman che ti viene a lavorare sul tuo gioco e dice ah, è stato interessante perché non avevo mai fatto una cosa del genere, o un Mark Hamill, non lo so, cioè capitano degli attori visti, no? Tipo adesso ho notato in The Last of Us Jeffrey Wright fa un personaggio, quindi insomma è un modo per sfruttare quello, però è anche un modo per attori che magari comunque sono sempre mestieranti, come diciamo prima, tipo Troy Baker, che quando ancora non era famoso, o Nolan North, per allenare un po', no? Allenare un po' quel muscolo che magari non riuscirebbe ad allenare avendo solo il doppiaggio. Io direi anche un po' di più che allenare, anche a volte anche ottenere un completo quasi riconoscimento, hai citato la Remedy poco fa. E oltre a dire Dr. Darling, Best Man o cose del genere, Best Waifu, che è un wake in realtà, però va bene. E, per esempio, mi è venuta in mente la protagonista di Control, che se non sbaglio Jessie Faden. Jessie nel gioco, sì, nel senso... Ah, lo dici l'attrice? Sì, io dico l'attrice che interpreta Jessie Faden, di cui adesso mi sfugge il nome, ovviamente, ma... come si chiama? Porco mannaggia. Courtney Hope, mi sembra. Adesso, mentre tu lo cerchi, cerco di dire quello che Courtney volevo Hope, dire. Sì, perfetto. Che, se non sbaglio, ha ricevuto anche abbastanza riconoscimenti, appunto, per il suo ruolo nel gioco, perché se non ricordo male, è passato un po' di tempo, lei prima aveva lavorato in una specie di soap opera, non vorrei dire una stronzata, ma mi sembra di aver letto così. O comunque sì, nel senso, mi sembra avesse fatto ruoli minori, e mentre il gioco gli ha dato un po' la possibilità di, dire, oltre a mettersi alla prova, anche dimostrare che è assolutamente un'ottima attrice, come anche molti altri membri del cast. Cioè, magari anche quello, cioè, ormai i videogiochi prima erano sempre un po' quella cosa da... No, è sempre la solita storia, partivano sempre con... sono cose da sfigati, sono cose che non interessano veramente la gente, non sono cose veramente serie, e adesso anche in questo campo, anche in questo nuovo lavoro dell'attore per videogiochi, si stanno tenendo riconoscimenti, ci sono attori che hanno vinto premi per le loro interpretazioni all'interno di videogiochi. Vedi ad esempio giusto alcuni dei protagonisti di The Last of Us, giusto l'anno scorso. Quindi per dire... Di nuovo, i videogiochi si stanno sempre di più, anche in questo campo, diventando sempre una maggiore impronta, un'impronta più importante rispetto a prima. E che altro volevo dire? Guarda questo, beh. No, beh, sì. Cioè, il fatto è che normalmente ti direi, vabbè, Marco, ma nel senso lo sappiamo, i videogiochi sono importanti, cioè non, ormai non è più un'arte, diciamo, vista come minore, ma siamo... Però per quanto riguarda invece la recitazione, ti do ragione che è importante avere quest'aura di importanza, avere questa quasi questo riconoscimento mediatico, questo riconoscimento di... quasi di creatività, di lavoro creativo, estetico, perché per la recitazione le apparenze sono importantissime, la reputazione è importantissima, cioè la recitazione è letteralmente basata sulle apparenze, quindi diciamo è purtroppo ancora molto incentrata su come posso dire, sul valore percepito che ha una persona, no? Quindi la celebrità, la fama, la bravura riconosciuta. Quindi magari tu puoi essere il miglior mestierante del mondo, puoi avere la voce migliore del mondo, puoi fare 200 voci diverse, puoi metterci l'anima e comunque non nel senso non avere ruoli, non essere riconosciuto. Cioè, per me, per esempio, no, un tizio che io amo è due tizi anche che io amo sono le voci di Manny Calavera e di, oddio, come si chiama, il demone della velocità, diciamo, su ah, beh, sì, certamente. Due personaggi di Grim Fandango che hanno delle voci stupende, hanno anche messo l'anima in quel ruolo, in quello studio, di quelle modi di dire, di quelle parole, di quelle cadenze, di quel atteggiamento che hanno quei due personaggi, e anche nella canzone che fa lui a un certo punto, Rusty Anchor, che canta. Vabbè, vi invito a cercare, se volete, se avete un'ora comunque aperta. Nel giusto per citarli, perché mi sembra giusto, Manny è interpretato da Tony Plana e Glottis è interpretato da Alan Blumenfeld. Perché, diciamo che Manny, l'attore Tony, è più riconoscibile, più riconosciuto, si è visto in e credo che abbia fatto anche film. Qualcosa in TV. Sì, ha fatto anche altri tre film. Glottis, vabbè, Alan no. Però vabbè, e diciamo la cosa bella è che se hai un buon direttore di casting, se hai un buon direttore del doppiaggio, che a volte è il direttore del gioco stesso, no? È il regista del gioco stesso, o game director che sia, comunque riesce a sfruttare bene tutti, non solamente chi lo fa di mestiere, quindi magari un Jack Black, un Elijah Wood, cioè comunque nelle mani della direttrice di Psychonauts di Broken Age, comunque escono fuori bene. Ho tantissimo hype per Psychonauts 2, voi non avete idea. Cioè, sono tanti anni che non provo questo hype di un gioco che so che lo giocherò con il sorriso a 44 denti, che è impossibile, che lo completerò al 100%, che lo voglio proprio spolpare. Proprio. Ho una voglia di giocarlo incredibile. Ok, scusate, questo era il mio momento fan shaver. Comunque, è che. Come dire, è più raro. Invece, per quanto riguarda la performance capture, come dicevamo, è meno raro che tu riesca, perché comunque è il loro mestiere quello. Quindi, è come dire, è un modo per dare quasi una. Un videogiocattolo. Wow, immagino. Oh! E quindi escono fuori belle cose. Cioè, il fatto è che magari The Last of Us gli attori vincono premi. E vengono riconosciuti così, in realtà i personaggi non assomigliano a loro. Un po' sì, ma non assomigliano a loro, no? Se ci pensi, Troy Baker con Joel non ci No, assomiglia no, tanto, quello è anche vero. Ellie con Ashley. Quindi, questo è anche il bello, no? Cioè, puoi vincere premi, puoi essere riconosciuto per un lavoro che fai per portare in vita un personaggio che non ti assomiglia quasi per niente, che è un Esattamente. personaggio quasi retorico, è quasi un simbolo quel personaggio, no? Anche Abby, che molti hanno criticato, quel personaggio Ancora è più. congratulazioni a Laura Bailey per la Esatto. performance. È quasi un simbolo, è quasi una. Come dire, è fatto apposta in quel modo, che non sto qui a dire, cioè. Non E per quindi. dire una banalità, ma hanno fatto gli attori, nel senso, non, è un ruolo da attore vero ormai a questo punto, perché di sicuro non ci sono più. Mi vengono in mente tutti. Adesso, quando prima hai citato quando gli attori facevano. Ci sono stati vari attori che hanno fatto varie parti un po' dei giochi, quindi tornavano sempre in mente. I vari COD che avevano sempre l'ospite di eccezione. C'è stato un Kevin Spacey, ci sono Oh no. stati anche lui, purtroppo, e tanti vari altri nel corso dei vari COD, Battlefield e cose del genere. E la cosa che faceva sempre, a me faceva sempre un po' ridere, che erano loro, nel senso era il modello 3D È certo. dell'attore che faceva. Quindi, mentre in questo caso è letteralmente indossare una maschera completa senza il peso del cerone sopra, perché sei un attore che interpreti un altro personaggio che non sei tu, mentre nel caso sempre dei code e cose del genere poteva essere visto, ovviamente era un personaggio, però era sempre, come dire, c'era un motivo se chiamavano queste persone con un certo nome all'interno di questi colossal videogiochi. Volevano un po' di quella persona all'interno del gioco, mentre in questo Sì, ma caso ci sono stati attori che hanno fatto performance incredibili indossando questa maschera di poligoni senza mezze misure. Così, non so se ho spiegato bene quello che volevo sì, dire. no, è giusto. Cioè, questo ti dà ragione anche Andy Serkis, che è l'attore di Gollum che ha quasi inventato il campo. Quindi lui dice sempre che è la forma più libera, più liberatoria, no? Più che ti libera di più. Ovvero perché una volta che vai oltre il ridicolo, no? Una volta che hai accettato di essere vestito in maniera ridicola, sei chi vuoi essere. Il personaggio è chi tu vuoi che sia, non dipende dal tuo corpo, da chi sei. Cioè, mi ricordo che nel Pianeta delle Scimmie lui interpretava una scimmia, la scimmia Sì, principale, il Cesare, protagonista, certo. e non importava chi eri come genere, come razza, cioè non importa letteralmente, non importa che sei, perché stai interpretando un animale che gli esseri umani non riconoscono come umano, non riconoscono come appartenente ad una razza umana o no, non riconoscono neanche il sesso a volte se non sei un esperto di zoologia. Quindi era interessante vedere anche chi degli altri attori nel film, chi erano davvero nella realtà, e cercare di riconoscere le espressioni, i movimenti di queste scimmie in loro, e e questa cosa ha del merito, per carità, cioè è molto bella ed è molto nobile. Però voglio un attimo citare gli animatori che si fanno il culo, un culo così. Prima di cambiare, scusami. No, non voglio cambiare argomento. No, giusto, prima di allontanarci da... Finché stavamo parlando di Andy Serkis, perché ci tenevo a fare. Ah, ok. Piccolo easter egg su Andy Serkis. Dopo aver detto tutto questo che abbiamo appena citato di come sia bravo a interpretare queste parti in cui si perde, in cui sei più lontano possibile dall'essere un umano vero e proprio, mi ha fatto molto ridere pensare che effettivamente c'è un videogioco in cui appare Andy Serkis, nel senso proprio Andy Serkis, proprio filmato di Andy Serkis alla fine, che è, aspettami che non, ovviamente non mi sta venendo il nome, aspetta un attimo, era Enslaved, Odyssey to the West. Vero. In cui nel finale c'è il filmato di Andy Serkis che dà un po' la morale della favola di questo videogioco che prende molto spunto della saga di cinese, sì, cinese, quella della andiamo avanti, non mi sta venendo le parole, questo Viaggio verso ovest, grazie, tipo c'è anche nel titolo, e sì, del viaggio verso ovest, che è la saga cinese, se non sbaglio. Sì, tra l'altro lui era anche in Heavenly Sword. So, gli piacciono quei giochi di quello studio. Comunque, Chissà, a me Slave è piaciuto molto. Ma vai avanti, non volevo... Volevo fare giusto questa citazione di Serkis perché, come dicevo, Enslaved è uno dei... mi è piaciuto molto. Come si chiamava lo studio? Ninja Theory. Ah, ok, molte cose hanno senso. Ninja Theory, per esempio. Ah, vabbè, per esempio. Allora, prima di andare avanti, volevo fare questo discorso di chiusura per dire perché tutte queste... infatti stavo pensando, probabilmente ci dovrebbe essere un altro che citerà in questa puntata, Jacopo, di giochi con la recitazione parecchio importante. Sì, Hellblade. Però, diciamo, Hellblade, la protagonista assomiglia molto all'attrice, nel sequel ancora un po' di più. Però io volevo chiudere un attimo il discorso di questi personaggi che non assomigliano agli attori, per dire che di solito più un personaggio è lontano dall'attore, e infatti nel 2 sono un po' più simili come struttura facciale, più è difficile rendere realistici i movimenti facciali, i movimenti del corpo, e quindi più lavoro è richiesto agli animatori, perché comunque gli animatori sono necessari in ogni caso a riprodurre queste performance. Non puoi usare i dati in maniera... Certo, il fotorealismo è ancora difficile, è ancora molto difficile. E quindi aggiungiamo lavoro manuale a questi poveri artisti di Naughty Dog. Comunque, il discorso è che poi questi giochi che invece usano le fattezze, quelle reali, come dicevamo prima, io non li biasimo, perché comunque usi la faccia famosa, usi magari la performance in maniera diretta, in maniera più economica, e magari non è, cioè, non ti distrae dal gioco se l'attore è comunque abbastanza bravo. Ora non so, un gioco come Call of Duty dove la recitazione ce l'ha in faccia, però ci sono altri giochi dove secondo me c'è un motivo, ovvero Alienware. Ora Alienware, rigiocarlo ora è difficile. Ci ho provato. ho fatto fatica un po' anche quando è uscito. L'ho giocato in VR ed è un po'... come dire? Vabbè, ma in VR è barare. Okay. No, in realtà no, perché il problema di Alienware è che, soprattutto in VR, è un po' esagerato, è un po' poco chiaro, è un po' lento, cioè ha tantissimi problemi, per cui diciamo che le cose positive che ha fatto, che ha rivoluzionato, sono un po' passate in sordina. Cioè sono un po'... non in sordina, scusate, in... sono un po' seppiti dai problemi che ha e che aveva anche prima. Era un po' avanti per i suoi tempi, probabilmente. Era molto avanti. Diciamo che è evidente, guardando l'ora, che la tecnologia che stavano usando era troppo avanti per quello che avevano a disposizione. Cioè, perché come funziona? Essenzialmente Lenoir usa attori reali per questi personaggi, per una storia di tipo noir, appunto, molto simile a LA Confidential, se l'avete visto il film. È importante vedere in volto queste persone perché tu sei un detective e devi capire quando le persone stanno mentendo oppure stanno nascondendo qualcosa che tu puoi dimostrare, insomma. Di solito la meccanica è o stanno dicendo la verità e quindi fai il poliziotto buono, o stanno dicendo una cazzata e tu hai le prove, oppure vuoi fare il poliziotto cattivo. Quindi di solito in base a quello che scegli hai più informazioni, hai più... come dire, più possibilità di concludere un caso in maniera corretta. Non è vero, però facciamo finta che è vero. Il fatto è che il modo in cui hanno ricreato le espressioni facciali degli attori adesso sembra datato. All'epoca era fantascienza. Adesso sembra datato perché essenzialmente è come se avessero proiettato il volto sopra la faccia di un manichino. Una volta che ci fai caso è impossibile non vederlo perché era impossibile a quel tempo raggiungere un livello di precisione così elevato sul volto di una persona, proprio perché mancava proprio la potenza necessaria a farlo. E Non quindi c'erano è... letteralmente abbastanza poligoni sul volto per fare Esatto. tutti. Quindi diciamo i movimenti del volto sono un misto di movimenti della geometria del volto e movimenti solamente della proiezione della faccia, diciamo, non so come dirlo. Quindi è un po' un misto strano, soprattutto quando lo guardi da vicino, però a quel tempo era una cosa, cioè, oh mio Dio. Poi tutti i personaggi che incontravi, o quasi tutti, erano attori da serie TV, erano attori Sì, semifamosi o se era no un famosi. cast niente male, nel senso non erano tutti nominati all'Oscar, però c'era parecchia gente che aveva lavorato anche nel mondo della televisione, del cinema. Sì, adesso non mi ricordo preciso, adesso cerco il cast, però c'era Aaron Staton di Mad Men, che è uno delle facce più riconoscibili del telefilm Mad Men. John Noble, che era il famoso dottor Bishop di Fringe, ma ha fatto anche Denethor in Signore degli Anelli. John C'era Noble è ovunque, beh, quando non sai John cosa fare, Noble mettici John Noble e ovunque. Esatto. sei a posto. Ma ci sono facce che voi cioè, le vedete e ah cazzo, questo lo conosco, Andrew Connolly, cioè anche facce molto azzeccate per il tipo di epoca, per il tipo di produzione molto noir, molto... Sembrava molto di più, molto più vicino alla TV che al mondo del videogioco come pezzo di intrattenimento, nel senso di era mo si Sì, sentiva forse molto troppo. che era quello purtroppo stavo per dirlo io fino all'eccesso a volte, ma si sentiva molto che era quasi pensato di più a stile serie TV quasi che piuttosto un videogioco. Sì, addirittura c'era l'attore quello che è in tutte quante le produzioni di J.J. Abrams, Gren Grunberg, era Matt Parker su Heroes, vabbè. Se l'avete visto, se no, vabbè, Ah, sapete chi sì, è. ho capito. È in ogni produzione di J.J. Abrams, è tipo il suo portafortuna. E, no, diciamo sì, cioè, quel gioco era talmente spaventato, era talmente quasi si vergognava di essere un gioco. Perché tipo ti diceva, ah, se vuoi puoi saltare da questa sparatoria. Ma come? Cioè, era molto concentrato sulla parte di investigazione, ma soprattutto di questi dialoghi, di queste interviste, e quindi di questi, come si chiama, interrogatori, scusate. Quindi diciamo... Piccola nota da game designer, giusto per dire, giudicavamo male dicevamo, no, le espressioni facciali esagerate, cose del genere. E sì, certo, a un certo punto c'è la tecnologia, quel che vuoi, cose del genere. Però mi sembra, cioè, questo, giusto per dare un po' sfogo al mio spirito da designer, che era giusto per dire, se l'è andata anche a cercare poi, perché quando metti come meccanica di gioco il come si può definire? Non è l'empatia, però è la lettura delle espressioni umane. E la usi come meccanica di gioco, questa cosa così umana, ma che allo stesso tempo non è una scienza precisa, è una questione di sensazioni, una questione di quanto conosci bene la persona. Cioè, il renderla meccanica di gioco, per forza hanno dovuto, a volte, più spesso che a volte, renderla eccessiva, no? Per fare in modo che anche chi non avesse... Quindi che fosse letteralmente una meccanica, cioè che anche quelli meno esperti, i giocatori meno bravi, potessero avere un'opportunità di riconoscere qual era la soluzione giusta a questo enigma. Quindi, non so, era una piccola nota che volevo fare. In realtà si complica nel gioco, cioè andando avanti verso la fine diventa più complicato capirlo, anche perché diventano più complicati i casi proprio come... Sì, nel senso era giusto per dire, tenete anche conto che non è solo una questione di cattiva tecnologia o cattivi attori, ma probabilmente a volte l'hanno anche fatto un po' apposta per creare quella situazione in cui uno dice, ma questo qua che sembra si stia cagando addosso, probabilmente è perché sta mentendo, perché altrimenti non, se uno reagiva in maniera normale, non, forse alcuni giocatori non capivano l'indizio, no? La meccanica. Ma poi pensa anche che questi attori, quando tu vedi le loro facce, non sono in un contesto tranquillo. Loro sono davanti a 500 macchine fotografiche, perché questo gioco, appunto, essendo stato fatto tanti anni fa, non aveva ancora la tecnologia di James Cameron della camerina in faccia portatile carina. Tu devi stare fermo in mezzo ad un set completamente bianco con tipo 600 telecamere tutte intorno a te, e quindi anche se tipo vedi una faccia di un personaggio che si sta sforzando, che sta raccogliendo qualcosa, così devi sempre avere in testa che loro erano fermi, cioè loro stavano fermi in mezzo a un set, seduti, e quindi sì, è molto molto strano, però è stato un altro passo in avanti in questa tecnologia. Poi c'è stato anche Hellblade, dove c'è questa protagonista fatta molto bene e anche recitata molto bene, infatti ha vinto anche dei premi lei, sempre con performance capture, però un po' più libera. Hanno fatto anche produzioni più grandi tipo Call of Duty, o quando uscirà, se uscirà, Star Citizen. Insomma, la tecnologia si è evoluta, insomma, nel tempo, in entrambe le direzioni, sia la direzione quella più, come dire, artistica, più elaborata, più manuale, che è quella di The Last of Us, sia quella più automatica, più realistica, tra virgolette, che è quella di Eleanor, che poi, vabbè, non è più Eleanor, è più alla James Cameron, insomma. VTuber. Io ci tengo a dire, se a chiunque ci stia ascoltando, di cercare anche qualche video su YouTube dei behind the scene dei vari... Beh, adesso ultimamente ho visto quelli di Resident Evil 8. Resident Evil 8 Village, per stare un po' international. Perché è bello, ed era un po' divertente vedere gli attori, che anche in questo caso non assomigliano molto ai loro personaggi, soprattutto per Resident Evil 8, e interagire in questi ambienti fatti di tubi, di poli qualcosa, non mi ricordo il nome. E non so, guardateli perché sono divertenti. Bene, caro. Che altro aggiungere? Ecco, qua vorrei aggiungere una cosina io prima di lasciarti andare, prima di chiudere l'episodio. Prego. Intendo aggiungere con aprire un piccolo argomento, quindi... Prego. Per chiudere, no, in definitiva. Videogiochi con attori. Gli attori nei videogiochi... Ecco, gli attori nei videogiochi. Videogiochi interpretati in questo modo. Sì o no? Come? Nel senso di favorevole la cosa, comunque vorresti che lo facessero di più, nel senso vorresti ce ne fossero ancora di più o no? Nel senso, qual è il parere definitivo sulla cosa? Perché abbiamo descritto, abbiamo fatto i complimenti dove andavano fatti i complimenti, assolutamente nulla da ridire ancora. Go go go Laura Bailey e Ashley Johnson e tutti gli altri. Però in definitiva, attori nei videogiochi, videogiochi narrati in questo modo sì o videogiochi narrati in questo modo no? Ma tu che ne pensi? Hai già un'opinione o volevi solo chiedere? In realtà anche un'altra cosa strana della vita è che tu hai tirato fuori questo argomento un po' dal nulla oggi. Ma io effettivamente non so perché ci avevo mezzo pensato anche qualche giorno fa di come io effettivamente nel generale preferisco i videogiochi senza gli attori. Permettimi di argomentare questa mia affermazione. Come detto innanzitutto, questa non è assolutamente una critica ai videogiochi con gli attori e cose del genere. Visto il mio fanboismo per Troy Baker e tutti gli altri, ci sono dei capolavori interpretati magistralmente, vedi appunto l'ultimo della Stovato, non so che dire perché non l'ho ancora giocato, ma il primo assolutamente, ci sono stati ci sono giochi senza i quali adesso ora come ora non funzionerebbero, pensando appunto anche a Resident Evil 8 che funziona, è quel classico horror movie cliché così che funziona proprio perché c'è anche una rappresentazione da parte degli attori che fanno funzionare un po' tutta la trama, tutta la messa in scena, ecco. E poi abbiamo giochi che in cui la recitazione non è il fulcro, ma che è un dolcissimo accompagnamento, vedi Control, vedi ormai quasi tutti i titoli AAA ormai di grandi case sanno che usano il 3D, hanno queste storie. Immagino tutti gli Assassin's Creed siano stati fatti così. Che altro è uscito di grosso di recente? Non mi sta venendo i nomi adesso. Però per dire, esistono, funzionano e assolutamente non voglio che vadano da nessuna parte. Però devo ammettere anche questo. Ripensandoci un po', ultimamente ho notato che io forse preferisco ancora non tanto videogiochi vecchio stile o non so, però mi veniva in mente che tutti i giochi che mi avevano appassionato ultimamente non avevano questo tipo di narrativa, non avevano attori, non avevano questa attenzione e questo impegno, ecco la parola che cercavo, questo impegno nel raccontare la trama in questo modo. E con la mia mente da complottista e cose del genere, come mi trovo, mi viene sempre da pensare, ma non è che per caso forse quando la casa produttrice si impegna così tanto per raccontare una storia così cinematografica, così narrata, così interpretata, non è che magari la parte di gioco del videogioco ci perde un po'. Nel senso che molto spesso giochi di questo tipo sono storie emozionanti, sono storie interessanti, sono storie bellissime, ma è quello il punto, sono più storie che giochi a un certo punto. E non lo so. E mi era venuto questa, diciamo, dubbio che magari quando ci si concentra troppo lì si creano opere d'arte assolutamente interessanti, ma forse giochi un pochino peggiori. Che ne pensi, Jacopo? Non farei un discorso in generale, cioè direi... Perlomeno il più delle volte, diciamo, la media, la statistica. Cioè, per alcuni giochi è difficile distinguere quella parte anche quello dal gioco stesso, nel senso che la mia soddisfazione nel giocare Uncharted 4 viene anche da quello, cioè è un elemento portante del gioco che non posso distinguere dal gioco stesso, perché un conto è dire, ah, ma io posso semplicemente guardarmi il filmato su YouTube e ho le stesse cose, però secondo me manchi un po' il punto, cioè il gioco è tutto, non è solamente le parti dove tu hai il controllo, secondo me, perché un gioco come Uncharted è, come posso dire, il gameplay non è fatto male, non è tutto quanto incentrato sulla spettacolarità, sulla bellezza, sull'animazione, su... Non lo so, cioè dipende come lo fai, dipende come lo fai. Se è una cosa che toglie attenzione, che toglie soldi, che invece di potenziare comunque lo diminuisce il resto del gioco, allora ti dico sì, è vero. Cioè, nel senso, Ma se è una infatti è cosa... quello, cioè io penso che alla fine io sto dicendo che continuo a preferire i giochi incentrati sul gioco più che magari quelli incentrati sulla narrativa. Però quella è una cosa mia, nel senso, cioè io ho quella preferenza, non è Ma un se mi giudizio. permetti di fare una tautologia e di fare lo stronzo che dice, boh, a me piace tutto, nel senso, non vuol dire Prego, prego. Puoi niente, sempre cioè, fare lo stronzo con me quando vuoi. i gusti sono gusti, per carità, ognuno ha le sue preferenze, però un gioco bello è un gioco bello, cioè, come No, ti dicevo quello prima, assolutamente. può esserci un gioco concentrato sulla narrativa che fa schifo, come ci può essere un gioco che è solo gameplay che fa schifo, eh. Ah, È assolutamente, tutto, dipende assolutamente. tutto da come lo usi, non ne farei un discorso troppo generale, cioè spero che sia una tecnologia sempre più economica da utilizzare, come lo spero per qualsiasi tecnologia, spero che diventi ancora più facile in qualche modo avere questo tipo di come posso dire, di recitazione di performance di non lo so, in qualsiasi gioco, non solamente in quelle produzioni altissime. Quindi diciamo che Hellblade è un esempio intelligente perché si concent hanno concentrato il loro budget su un personaggio. E mi piacerebbe vederlo usato anche in altri. Ecco, volevo fare un po' questo esempio per Momento Kojima. Ah, Sigla! quindi c'è ancora il momento così. Kept you waiting, huh? Non è mai andato in pensione in realtà, era tutta una finta. Ok. Era solo un episodio in cui tu hai voluto mettere paura nel nostro pubblico prima di. Esatto. Tanto finché non muore Kojima, non muore neanche questo episodio, questo momento Kojima. Ok. Allora. Cioè, Va volevo bene, fare fai il questo momento esempio che Kojima. dicevi tu. Sì. No, dicevo, fai il momento Kojima, poi dopo faccio un'ultima reference io a quello che ho detto prima. Ma dopo il momento Kojima vai Oddio, tu. pensavo volessi chiudere. Sì, no, chiude. Era giusto per. Volevo solo aggiungere anche che quella frase che ho detto un po' prima, forse, sai, avevo anche pensato da che cosa potesse essersi originato un po'. Altro piccolo easter egg per chi è interessato. Gioco che forse abbiamo già citato un'altra volta o due, la saga di Dark Souls. Forse c'è, non so perché, c'era anche stata tutta la storia dietro di questo mio astio verso il. Astio è troppo forte, però diciamo questa mia preferenza per la non motion capture è che Dark Souls 1 e 3 non sono stati fatti in motion capture, ma mentre Dark Souls 2 sì, ha tutte le animazioni che sono motion capture. Ed è il peggiore della serie. Quindi forse era nato un po' anche da lì la mia cosa. Ah, vabbè. Ma Però perché pensa. lì c'era tutto il discorso che hanno dovuto cambiare elementi di gameplay per la motion capture, hanno dovuto. L'attenzione dello sviluppo è stata spostata dal gioco in sé al più la motion capture e tutto quello che c'era un po' attorno e cose del genere così e quindi era uscita un po' questa cosa un po' raffazzonata, però quello era giusto per a mezza, non so, un piccolo aneddoto, eccolo qua. Pensa quando sarebbe stato figo Sekiro. se avesse avuto più dettaglio, più, cioè, perché ripeto, tu adesso magari dici così, però non ci penseresti due volte ad un doppiaggio, no? Perché un doppiaggio ora è così facile, no? È una cosa così diffusa, non penseresti mai a un Dark Souls completamente senza doppiaggio. Perché non pensi, ah, mi hanno tolto soldi dal gioco per mettere il doppiaggio, no? Vero, vero. Mentre prima era un casino, cioè, appunto, per parlare un attimo relativamente a Kojima, no? Per mettere il doppiaggio in un gioco per PlayStation 1, insomma, non era facilissimo. Quindi, da Metal Gear Solid 1, Kojima ha fatto una scelta. Ha fatto una scelta con coscienza, no? Di mettere il doppiaggio, perché era una cosa costosa, no? Come Final Fantasy aveva 4 dischi per tutti i filmati che aveva, Metal Gear Solid 1 aveva tipo 3 dischi, mi sembra, o 2, non mi ricordo. E quindi, come tu adesso magari lo vedi come una scelta, io ti sto dicendo aspetta che non lo sia più, e magari, cioè, o comunque dipende da come viene fatta questa scelta, no? Cioè, vabbè, comunque. Dicevamo di Kojima. Dicevamo di Kojima, appunto, per passare a Kojima. Kojima ha fatto una scelta, come nel Gear Solid 1, e ha cominciato ad andare sempre più nella direzione, secondo me, della performance capture con il 2, ma soprattutto con il 3. Nel 3 c'è il famoso filmato di riferimento di Ocelot, non so se l'hai visto, dove c'è questo, insomma, questo tizio giapponese che fa ruotare le revolver. Certamente, ok, ho capito. È stato usato come riferimento per il filmato di Ocelot, dove fa i trucchetti con le revolver. Però diciamo che il vero, diciamo, la vera esplosione in tutti i sensi della recitazione nei giochi di Kojima è stato un po' il 4, ma soprattutto il 5. Nel 4 c'erano questi filmati, c'erano questi proprio FMV, formation video nel gioco, un po' strani, un po' appunto un po' Kojima, e c'erano un po' di come dire, performance capture. Però poi in Metal Gear Solid 5 è andato proprio all-in e ha fatto una mossa che ha, come si dice, come se un milione di nerd avessero urlato nello stesso momento, come dice il buon Obi-Wan, no, chi è che lo diceva? Comunque sì, cioè, ha deciso di licenziare, o meglio, non ringaggiare il doppiatore storico di Snake, il nostro amato, ben amato David Hayter, o David Glover, oppure e di rimpiazzarlo con il simpatico, we love to hate, no? Con il simpatico Kiefer Sutherland. Però ci hanno messo dentro Troy Baker, quindi immagino che a te vada bene il trade-off. Però è stato una consolazione. Kiefer Sutherland, celebrità amatissima da Kojima, che è un fan di 24, della serie TV di suo Sutherland, che ha un po' cambiato l'espressività di Snake, l'ho reso molto più pacato, molto più normale, ha smesso di dire continuamente l'ultima parola che dicevano le persone che parlavano con lui, in maniera di domanda, ha smesso di fare espressioni... L'ultima di, parola. Solo... L'ultima parola. Metal Gear è diventato molto meno, diciamo, overacted, molto meno Nicolas Cage è diventato Kojima, sì, Kojima, Snake, anche Kojima purtroppo. C'era tutta la storia che Kojima voleva un'interpretazione diversa per questo Snake, che c'era, e bla bla bla, e se ci pensi... C'è un motivo, sì, però alla fine non però è vero. Ti viene da chiedere, secondo te era... la Konami che gli ha, tra virgolette, un po' se l'ha detto tipo trova qualcun altro, o è stato tipo Kojima che al vedere... No, è stato Kojima. Cioè Kojima no, quindi è stato proprio... Sì, no, era quello, quindi è quello. Cioè, nel senso, al vedere i milioni che gli stava dando Konami, ha detto ma buttiamone un po' a Kiefer Sutherland e sì, dai, facciamo... Portatemi Kiefer qui, portatemelo. Chissà se con David Hayter al posto di Kiefer Sutherland, se avessero fatto magari un... Se fossero usciti... Non lo so. Tu dici, vabbè, se non avessero speso i milioni per Sandman... Magari avrebbero fatto un capitolo in più. Magari un capitolo in più. Ci usciva una missioncina in più, vabbè. Beh, parlando... non lo so, giusto... Allora, prima di chiudere, parlando sempre di motion capture, tutto quanto, non si può citare quello che... Non si può non citare quello che è successo con Death Stranding, che secondo me è stato un po' una piccola pietra miliare, si può dire, anche un'altra volta, Kojima, di nuovo un'altra pietra miliare piccola nel videogioco, perlomeno per Matt tutta Mikkelsen. La storia... A parte Matt Mikkelsen, che anche lui, tesoro nazionale, ma dicevo... Se ci pensi, quand'altro c'è stato un cast di questo tipo in un videogioco? A parte, perché diciamo anche prima, L.A. Noire aveva un castone, sì, però questo qua forse era anche un cast singolo di... Non lo so, forse l'unico che potrebbe fare... Questo era un cast da film indie, nel senso che hai la star della TV, Dave Dixon. Cioè, hai Norman Reedus, no? Hai Mads Mikkelsen, che è amato da ogni regista indie internazionale, che ha fatto anche film Marvel, eccetera. Hai Lia Seydoux, che è, come si dice, bellezza incredibile internazionale, in tanti film in cui lei si è vista. Però, dico, è conosciuta a livello internazionale con Mission Impossible, eccetera. Grandissima, bellissima donna. E poi hai anche, cioè, gente comunque un po' meno conosciuta, che però se sei un fan dei film la riconosci, tipo Guillermito, il mio amico, o il mio amico del toro, come lo chiamo io, oppure Nicholas Winding Refn, che è un altro regista pure famoso, sempre un po' indie però, e, cioè hai tantissimi anche personaggi magari secondari che sono... Mestieranti molto bravi, cioè è un po' il mix giusto per il tipo di progetto e soddisfa un po' quella voglia di Kojima di avere amici famosi, secondo me, di farsi amici e amiche queste persone. E... Insomma, no, cioè, sì. Kojima è riuscito a grabbare, cioè a chiappare tutto quello che deve, questa cosa. No, è bellissimo, cioè... Ah, è bellissimo, assolutamente. È anche un modo bello di usare queste facce, perché dopo un po' le facce scompaiono nel personaggio, che è sempre bello da vedere, quando magari vedi... Dici, ah, cazzo, Guillermo del Toro, però poi no, è un altro... È un'altra persona quella, non è... Cioè, non si comporta come del Toro, non ha le stesse... Anche Norman Reedus, no? Cioè, è molto particolare come personaggio Sam, quindi... Assolutamente. E poi tutto il rispetto per aver chiamato Troy Baker a fare la sua parte. Quindi... Sì, con la sua faccia, esatto, Troy Baker. Con la sua faccia, anche... tutto quanto, assolutamente. Perché quello... Anche lì uno non ci... magari non ci pensa subito, ma il fatto di mettere la faccia di uno che di solito fa il doppiatore nel videogioco è un riconoscimento in sé come cosa. Perché vuol dire, prima sentivamo solo la sua voce, adesso lo vediamo anche che... E come abbiamo visto, sa recitare assolutamente. Cioè. E anche c'è anche Lindsay Wagner, la donna bionica, come si chiama. Insomma, ci sono tanti attori conosciuti, non conosciuti, mezzi conosciuti, cioè, e sono tutti personaggi abbastanza. Anche Guillermo del Toro, cosa vuoi di più? Esatto. Quindi ecco. Molto molto azzeccato. Boh, a posto. Io penso di aver detto tutto quello che avevo da dire sul motion capture. Poi parleremo un'altra volta poi delle VTuber. Sì, faremo la classifica delle VTuber preferite, un'altra lista, un altro episodio lista come faranno sicuramente la serie TV sull'Autrek con il tizio che fa Jamie Lannister adesso, Marco, sicuro. Sicuro. Perché? Vabbè, andiamo avanti. Comunque, vabbè, andiamo avanti e salutiamo, dai. Quindi è stato un piacere per noi. Speriamo che l'episodio vi sia piaciuto. Io ero Marco. Io ero Jacopo. E continuate a giocare. Ciao ciao.